storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Signori e signori, buonasera. Buonasera da Gesi. E da Antonio. Ecco Antonio, siamo già nel mese di marzo, il mese nel quale dovrebbe incominciare la primavera. Speriamo in bene, perché non si sa mai, le stagioni si sono proprio capovolte. Bene, intanto diamo la parola a te. Allora un cordiale benvenuto alle amiche e gli amici su Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Il nostro indirizzo internet è www.bluradioveneto.it. Il numero di telefono, come sempre, per sms, consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro è il 346 23 20 033. È anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare naturalmente un cordiale saluto al nostro regista. Benissimo. Allora Antonio, stasera cosa abbiamo di bello? E questa sera abbiamo due figure importanti, naturalmente nell'ordine abbiamo il dottor Tony Basso, che ci parlerà della storia esattamente, del Treviso, e naturalmente a seguire l'uomo del Tavaro, Tiziano Spigariolo, figura. Eh sì, che ci parlerà delle tradizioni. Naturalmente. Benissimo, allora adesso devo fare un momento di tristezza, insomma, sì, quando una persona ci lascia, anche se non l'abbiamo mai conosciuta, è sempre un momento di tristezza. Allora, oggi sarebbe il compleanno di Lucio Dalla, il quale ci ha lasciato proprio il primo di marzo. E noi, per ricordarlo, facciamo ascoltare una delle sue canzoni, diciamo la prima sua canzone, ed è intitolata 4 marzo 1943. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma. Le strofe di taverna le cantò anni la nonna. E stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso adesso che gioco a carte e bevo vino. Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco. Eccoci di nuovo in studio ed è arrivato anche il primo ospite della serata, che è il dottor Antonio Basso. Benvenuto in studio, e anche questa sera abbiamo il piacere di avere di nuovo con noi un esperto di storia trevisana, dottor Tony Basso. Buonasera dottore. Buonasera, buonasera, buonasera. Dottor Basso. È sempre bentornato. Grazie. Sempre con grande piacere. L'argomento di questa sera? Beh, potremmo completare quello che abbiamo detto il mese scorso riguardo al periodo medievale della nostra città e del nostro territorio. Non so se sia stata il mese scorso o due mesi fa che io ho parlato di un documento che esiste nella Biblioteca Marciana di Venezia, che risale intorno al 1320, nel quale viene probabilmente per la prima volta usata l'espressione di marca gioiosa. Sì. Il manoscritto è redatto in quella che gli studiosi hanno definito lingua franco-veneta, un'espressione letteraria nella quale, per conferire alla parlata locale veneta una dignità di prestigio, si ricorreva all'utilizzo di forme lessicali e grammaticali di importazione che nella circostanza storica e culturale erano quelle dell'Oltralpe francese. E dalla Francia venivano anche i contenuti di tali produzioni, che privilegiavano il genere epico cavalleresco, soprattutto quello del filone carolingio, già approdato dalla tradizione orale alla forma scritta in opere come la Chanson de Geste. Naturalmente. E dunque in tale contesto che si colloca il nostro documento intitolato L'entrée d'Espagne, l'entrata in Spagna. Nel quale sono narrati gli avvenimenti precedenti la rotta di Roncisvalle, subita dai cavalieri cristiani, capitanati da Rolando, il nipote di Carlo Magno, che erano entrati nella penisola iberica per liberarla dagli arabi. L'autore della composizione, che è in versi, non ha intenzionalmente lasciato la sua firma, ma ha dato indicazioni probabilmente sufficienti ai contemporanei per essere identificato. E io qui sotto mano proprio il testo che voglio leggere, e dice: «J'ai que suis mis à dire del nouveau Carlemagne, non mon nom vous non dire, ai sui patavayan, de la cité de fils que fit Saint-Enor de les Troyans, en la joyeuse marque del Courtois Trevisan». E io cerco di tradurlo così: io che ho preso a dire del nipote di Carlo Magno, non vi dirò il mio nome, io son padovano della città che fece Antenore di Troia, nella marca gioiosa del Trevisano cortese. Per esempio, ci sono molte espressioni proprio che appartengono al linguaggio francese, che non è del tutto stato dimesso dalla nostra parlata dialettale. Per esempio, quando noi diciamo va tu via, ricalca proprio esatto. Queste, i resti di questa parlata francese. Anche il Veneto, abbiamo detto che cos'è la marca, che è questo territorio di confine, e a capo di questa alleanza c'era un Markgraf, un marchese o Margravio che presiedeva, ma in realtà un marchese di Treviso non c'è mai stato. E qui lui cita questa espressione di marca e dice della marque joyeuse marque, e qui non c'è, si capisce benissimo cosa vuol dire marca gioiosa, sì. Perché il Boccaccio, che conosceva certamente il carattere dei trevisani, nell'ambientare una delle sue novelle la colloca proprio a Treviso e c'è una burla fatta da un fiorentino che arriva a Treviso con degli amici e vede che c'è un certo movimento e c'era il funerale del beato Enrico da Bolzano. E lui si spaccia per un mezzo paralizzato, si fa portare dagli amici nel luogo dove passava la processione e a un certo momento dice che è guarito, si comincia a muoversi, a dimenarsi e la gente dice è un miracolo di questo. Se non che in mezzo a tutta quella gente c'era qualcuno di Firenze che doveva aver riconosciuto quel personaggio e racconta e smonta la burla e questo qui insomma riesce a salvarsi a malapena dalle ire e questa è una novella che è stata raccontata dal Boccaccio, quindi conosceva il carattere dei trevisani per poter prendersi il lusso di ambientare proprio a Treviso questo genere di burla. Sì, sì, sì. E fin qua ci siamo, ma poi del Courtois Trevisan, del trevisano cortese. Cortese nel senso non di cortesia di uno che apre la porta ad un altro che dice buongiorno, ma nel senso proprio della parola di cortigiana, dell'accezione che ha la parola cortigiana, che ha la parola fare la corte e quindi nel senso proprio del rapporto amoroso ed è a questo fatto che ci riferiamo quando parliamo del castello d'amore. Una tradizione che non era soltanto trevigiana, anzi a Treviso è durata una volta sola, adesso io vi racconterò anche come, sì, sia pure in breve, è avvenuto questo fatto. Doveva essere un episodio, una sceneggiata che doveva in qualche maniera, sia pur simbolica, ma rappresentare la conquista della donna attraverso... come viene narrata qui a Treviso, attraverso la recita di poesie, il lancio di fiori, l'offerta di frutta, eccetera. Quindi doveva essere una conquista, ma fatta anche con una certa eleganza. Signorilmente, l'episodio è ripreso anche iconograficamente da degli oggetti in avorio, che sono dei dischi che facevano da valva agli specchi che le donne tenevano probabilmente nella camera per prepararsi, per agghindarsi, sì, la cosmetica era sempre esistita. E quindi avevano bisogno di uno specchio per vedere come erano sistemati i capelli, eccetera, eccetera. Sul retro di questo specchio c'era in avorio, tutta intagliata, questa rappresentazione della conquista di questo castello d'amore, chiaramente simbolica, ma che andava a riferirsi poi al rapporto tra gli amanti. E queste valve di avorio ne esistono parecchie conservate nei maggiori musei. Io l'ho visto in Francia, l'ho visto in Spagna, ci sono anche qui in Italia, al Bargello, addirittura al museo di Venezia, al museo Correr, ce n'è una che rappresenta questa scena appunto della conquista del castello d'amore. Veniamo all'episodio trevigiano, sì, che è ambientato, dice il cronista dell'epoca, in località Spineta, cioè in Selvana Bassa, diciamo noi, e era stato organizzato dal podestà dell'epoca, certo Salinguerra dei Torelli, che era un ferrarese, e c'era questo castello che doveva essere, diciamo così, espugnato sempre attraverso il lancio di fiori, la recita di poesie, e si presentano da tutto il Veneto vari giovanotti, c'è una squadra di veneziani, c'è una squadra di padovani, e i veneziani a un certo momento, che avevano anche delle possibilità economiche probabilmente diverse dai nostri, lanciano anziché dei fiori degli zecchini d'oro. Mamma mia. Vedendo la cosa, i padovani naturalmente insorgono e ne nasce un putiferio che sfocerà poi una guerra tra Venezia e Padova, durata parecchio tempo, tanto che ha dovuto metterci da far da paciere il patriarca di Aquileia per mettere buoni questi due. Da quell'epoca del Castello d'Amore non si è più parlato, non se n'è più fatto niente, ma questo fatto ha dato motivo forse ancora a questo, poeta padovano che ha scritto dell'Entre de Spagna di chiamare Treviso la città oltre che gioiosa anche amorosa, per questo precedente storico che era il corso, ma che ripeto non è specifico soltanto di Treviso, dato che si trovano queste raffigurazioni in avorio sparse un po' in tutta Europa. È molto simpatica questo episodio. Comunque, insomma, questa marca gioiosa e amorosa. Okay. Dirò, anzi, se mi permette di aggiungere, dato che prima abbiamo citato Boccaccio, che in un'altra novella, che non è il caso di star qui a raccontare, il rapporto tra due amanti viene definito danza trevigiana. Questa è nuova, veramente neanche io non la sapevo. Quindi diciamo che Pietro Germi ha trovato degli, sì, cioè, degli predecessori di tutto rispetto, se vogliamo. Sì, ecco. Sì, danza trevigiana. Beh, insomma, si impara sempre. Nell'ottava giornata del Decamerone è la novella ottava. E questa la lascio a chi ha la curiosità di andarsela a cercare. Certamente, quindi un carattere che chiaramente viene. Era ben noto oltre i confini del nostro territorio. Ci sono riferimenti proprio precisi. Sì, perché Boccaccio da Firenze. Certamente, beh, non solo naturalmente, poi anche Dante evidentemente. Sì, anche Dante si parla delle frequentazioni illustri anche abbiamo avuto naturalmente. Cunizza. Treviso era conosciuta proprio abbastanza. Quindi anche, diciamo che è stato il periodo dei liberi comuni, è stato determinante diciamo anche qui nella nostra zona. Sì, sì, non solo per la vita economica, per la vita culturale, ma anche per questi aspetti certamente che dovevano aver caratterizzato l'aspetto e anche il carattere proprio così pacifico, non bellicoso dei trevigiani che invece probabilmente preferivano far la bella vita piuttosto che la guerra. Un approccio alla storia praticamente che hanno, che so, i francesi piuttosto che i nostri storici, se non ricordo male. Cioè vedere la vita spicciola, la vita quotidiana come un elemento di paragone, un elemento di confronto con altre realtà, con altre storie, con altre civiltà, insomma, ecco. Ma è interessante, cioè, fare questo confronto tra le varie vite dei vari luoghi, dei vari paesi. E Venezia mette gli occhi su questa Treviso, non solo per le ragioni commerciali, di cui parleremo magari più avanti, ma anche perché era una città che considerava il suo giardino. Esattamente. Addirittura, il suo giardino. È sempre città d'acqua, naturalmente, anche questa. Sì, in maniera. Sì, ma un elemento decorativo per, per lo Stato, per il Ducato Veneto, avere Treviso come giardino. Il giardino di Venezia, perché il giardino si coltivano i fiori e quindi è un elemento decorativo. Un elemento esatto di rispetto, un elemento anche Treviso produttivo. Treviso è stata definita proprio il giardino di Venezia. Esattamente. Ma allora, di che cosa vivevano? Del lavoro dei campi, in sostanza? Ebbene, di tutto il lavoro che c'era, l'artigianato. L'artigianato, sì. Sì, ma anche certamente la produzione di sostanze alimentari e quindi l'agricoltura. Sì, l'agricoltura era la maggior fonte di lavoro. Ebbene, certamente non c'erano. Non c'erano fabbriche, non c'era. Ma non c'erano i menù che alle volte si vedono spacciare come menù medievali. Pensate che per esempio una volta ad Arcueil, Petrarca, un ristorante andò a proporre un piatto alla Petrarca. E quindi sembrerebbe che dovesse essere un cibo che il Petrarca mangiava. C'erano i pomodori, la salsa di pomodoro che è stata portata dall'America dopo che Cristoforo Colombo è andato a scoprirlo. Quindi, un po' come l'orologio al posto del centurione romano, cose di questo tipo. Insomma, ecco. Ma adesso nei ristoranti cercano di per attirare la gente, non sanno più cosa inventare. O come le monete antiche sulle quali Come uno spacciatore cercava di venderle, vedi, antica, che è scritto anche 30 avanti Cristo. La moneta di allora, chissà come si chiamava, zecchina? A Venezia c'era una zecca. Era dalle parti di Santa Bona, pare. E quindi venivano coniati i bagatini. Che bello. E certo che ascoltare tutte queste cose, il tempo non corre, vola veramente. E così anche stasera siamo arrivati alla fine della nostra lezione di storia, la nostra chiacchierata. Sì, però per me è stata, diciamo, anche una bella lezione, perché certe cose veramente mi erano sconosciute. Comunque, come sempre, noi la ringraziamo e l'aspettiamo prossimamente. Alla prossima volta. Buonanotte. Arrivederci. Ringraziamo naturalmente il dottor Tony Basso e lanciamo un'altra canzone. Sì, Antonio, visto che, come ho detto prima, aspettiamo la primavera, proviamo a far ascoltare questa canzone che è una speranza per la primavera. Aprite le finestre, che è cantata da Franca Raimondi. Ormai la prima rondine è tornata, nel cielo limpido comincia a volteggiare, il tempo bello viene ad annunciare. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, lasciate entrare un poco d'aria pura, con il profumo dei giardini e prati in fiore. Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle, innamorate. E forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Il cielo fra le nuvole d'argento, la luna ha già fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. Aprite le finestre al nuovo sole. Sul davanzale un piccolo usignolo, dall'ali tenere le piume morbide, ha già spiccato il timido suo volo e contro i vetri ha cominciato a picchiettare. Il suo più bel messaggio vuol portare. È primavera, aprite le finestre ai nuovi sogni, alle speranze, all'illusione. Lasciate entrare l'ultima canzone che dolcemente scenderà nel cuore. Nel cielo fra le nuvole d'argento, la luna ha già fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. Ed eccoci di nuovo in studio. Noi ringraziamo naturalmente il dottor Tony Basso e passiamo al secondo ospite della serata, che è il nostro amico, l'uomo del tabaro, Tiziano Spigariol. Buonasera Tiziano. Buonasera Tiziano. Buonasera, buonasera a voi. Bentornato. Sempre grande piacere nel trovarlo. Certo. Grazie. Quindi noi cediamo subito la parola a Tiziano. Io vi ringrazio per questa squisita ospitalità. E saluto tutti i radioascoltatori di questa meravigliosa radio. È stato un inverno da tabarro, Decisamente. È proprio decisamente. Vero, sì. Il colpo di coda in particolare. Questo inverno ci ha dato soddisfazione. Esattamente. È stato un febbraio, hanno detto, il più freddo degli ultimi 20-30 anni. E noi gli siamo grati perché grazie a lui ha rinverdito tradizione e cultura della nostra terra e abbiamo importante. Visto tanti tabarri girare per le strade e questo ci ha fatto immensamente piacere. Vuol dire che insomma la gente c'è, si ricorda e la memoria storica funziona. E si rinverdisce come dovrebbe essere, giustamente. Che bella che è la memoria storica. Sì. Dopo però questo freddo inverno, sta arrivando, diciamo, la primavera. E già i primi raggi di sole, temperature magari anomale per questa stagione. Però si sa, da noi si dice il tempo le sta da sposar per far quel che vuole. Quindi ecco, quindi abbiamo il sole. Sole che sta preparando il terreno, ma sta riscaldando il terreno e sta dando l'opportunità di sarpir, cioè di potare le viti soprattutto. Molti hanno incominciato in questa stagione il bruscar, il sarpir. Ecco. Bruscar, cos'è? Bruscar le viti, no? La potatura delle viti. Sì. Ecco. E quindi, insomma, se andiamo in campagna, vediamo già persone al lavoro anche in maniera alacre in questo periodo, perché cercano di far presto, perché fra poco arrivano tutti i lavori. E poi passato febbraio, aprile, cioè marzo dico aprile, arriva un uccello migratore, cui un nostro proverbio, il cuculo. Che questo proverbio dice: quando che canta il cuco da far dappertutto, col cuco canta la farsi in pianta. Cioè. E allora quando il cuculo arriva e incomincia a cantare, la campagna è piena di frenesia e di lavoro, perché c'è tutto in movimento. Ho capito. E se invece il cuculo non canta? No, il cuculo arriva come ogni anno, come il freddo, il caldo, disea menono, non lo ha mai mangiato nessuno. È vero? È vero? Speriamo che non venga il caldo tanto grande come è venuto il freddo. Prenderemo quello che verrà. Capita, purtroppo non possiamo fare come niente. Si faceva una volta. Adesso allora, che lavori ci sono in campagna questo mese di marzo? C'è la preparazione del terreno per le grandi semine del mais. Il frumento è abbastanza a posto, dico abbastanza perché stiamo aspettando anche una pioggia benedetta, perché effettivamente c'è una grande siccità, lo possiamo vedere nei fiumi, il Sile, il Piave ridotto ad un rigagnolo, eccetera, e speriamo che tutte queste cose così sperate e che ci abbisognano, il buon Dio le soddisfi e le mandi, perché i suoi figli abbiano la possibilità poi di continuare a fare quello che sanno fare. Perché hanno previsto un'estate con tanta siccità, hanno previsto un'estate con poca acqua, in sostanza. Speriamo buon viso a cattiva sera. Senza acqua d'estate è triste la faccenda, ma insomma vediamo. Speriamo in bene, dai. Speriamo. E bene. Quindi insomma i contadini cominciano a lavorare, cominciano a fare tutti i loro lavori. Sì, cominciano a fare i loro lavori all'esterno. Sì, perché finora hanno lavorato all'interno. Hanno prodotto salute hanno chiedo scusa hanno prego, prodotto prego. Il radicchio rosso di Treviso, hanno continuato con l'allevamento nelle stalle. Stiamo gli animali da cortile definiti di bassa corte, a poco le oche, le galline, eccetera, stanno incominciando le prime covate, quindi insomma si sta muovendo tutto. La primavera, se noi guardiamo e facciamo attenzione a guardare i boccioli, che so, degli alberi da frutto, sono lì che si stanno gonfiando e mai sopportano questo po' di freddo. Adesso il vento la farà da padrone, però poi per esplodere definitivamente. Proprio ieri guardavo il pruno selvatico, la Moher. Già incomincia a farsi vedere un po' di bianco, di chiaro nei boccioli, delle prime foglioline che... E quindi è proprio pronto. E quindi ci siamo, ormai è questione di giorni. Ci siamo. Quando lei ha parlato di stalla, mi è venuto in mente il fiò, che una volta si faceva il fiò, no? Sì, il discorrere, diciamo, nella stalla, delle famiglie che si riunivano in una casa, e lì si dicevano le cose che erano successe, si raccontavano episodi di vita passata, qualche favola per i bambini, qualche storia per mandarli a letto contenti, le preghiere dei grandi, il lavoro a maglia o di cucito delle donne, poi, come si diceva qualche tempo fa ancora, il riassettare tutti gli attrezzi, difatti gli uomini facevano agricoli quello. E quindi si mettevano a posto tutti gli attrezzi per la nuova stagione, perché... tutte attività comunitarie praticamente, sì, che tutto. Si svolgevano proprio esatto. Si è perso un po' traccia. Penso che sì. Si è atomizzata la società, quindi evidentemente. Fra 10-15 anni. Però lo spirito che lo animava non è morto del tutto, anzi, mi pare stia così un po' ritornando sotto altre forme. Ma io direi semplicemente che lo spirito, cose come lo spirito di aggregazione, lo stare insieme non è mai morto e non morirà, questa è la speranza, perché la gente ha bisogno di stare con la gente, di comunicare, di confrontarsi, essere di, sociali, esatto. Ecco, essere individui sociali, e poi alla fine perché no, vuol dire far imparare agli altri le proprie esperienze, ma anche imparare e molto dalle esperienze degli altri. Però dicono che questa è l'era della solitudine, c'è tanta gente sola. Occorre, l'antidoto è proprio questo, appunto, rimettersi assieme, ritrovare, pensare per se stessi e anche per gli altri. Contestualmente. Vorrei dire che c'è una speranza, ci sono molte speranze, ma cogliendo questa occasione voglio dire che anche questa è una speranza, questa radio è una speranza, perché comunica alla gente, certo. Perché vuol fare in modo che la gente stia assieme, abbia una parola non solo di consolazione, non solo di speranza, non solo di ricordi, ma tante cose assieme. Un'ora in compagnia con la nostra trasmissione, poi con tutte le altre che seguono, insomma, esatto. Per noi è un piacere poter tenere compagnia magari a tante persone sole. Bene, ci fermiamo un momento per un'altra canzone. Stavolta ti ascolteremo Canzone per te, che è cantata da Roberto Carlos. La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo. La mia ricchezza, la tua allegria. Perché giurare che sarà l'ultima volta? Il cuore non ti crederà. Qualcuno ti darà la mano e con un bacio un'altra storia nascerà. E tu mi dirai che sei felice come non sei stata mai. Voglio bene, per questo canto e canto te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. E tu mi dirai che se felice come non sei stata mai, a un'altra io dirò le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che ti voglio bene, questo canto e canto te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto. Eccoci di nuovo con voi. E siccome, come penso che avrete capito, stasera si parla di Treviso, come al solito vorrei leggere una poesia di un poeta trevigiano, del signor Emilio Gallina. E stasera è una poesia in dialetto tratto dalla sua silloge Scondicucco. La poesia è intitolata Non savea del vento. Sull'ora che more il sol, se sta sui scaini della vecchia casa, go incontra uno, un mato, un santo, non lo so. Io ci sarai, intento ascoltar. O go sai, udamma, fermete, è il megafato sottovoce. Sentete qua, ascolta. Senti tu? Senti tu sta voce? A secoia del vento. E il vento, e il viene da distante, e il conosce meraviglie de storie che il tol su e le porta in giro e le conta a chi le sa ascoltar. Mi col passa, mi piace ascoltarlo. Me son sentare ente de u par un tocco, tutto intento ascoltar. Sì. Go sentio il vento caressarmi il viso e i cavei, ma a sua voce non go sentia. De certo l'usma e il ciasso destidigo, pensa, me ga indurio e recce. Mi stimo pivera d'antra storia. Forse do copì il cuor de putel, fa quel matto, quel santo. E il vento non ga voce par me. Ecco, adesso ridiamo la parola all'amico Tiziano. Le è piaciuta la poesia? Assolutamente, Emilio è un grande. Lo salutiamo naturalmente. Sì. Mi dispiace per il vento. Perché? Che non sia capito. Sì. Comunque io la trovo una bella poesia proprio, veramente. dà la dimensione di quello che non siamo più e di quello a cui dovremmo riaspirare. Il cibo, per esempio, di un tempo genuino e semplice. Per esempio il cibo, ma, ma soprattutto l'avvicinamento, lo stare con la natura, il capire le stagioni, il perché, l'aspettare le stagioni sapendo che succederà. E poi riconoscerne i frutti e saperli utilizzare. Importante. Comunque, allora, parliamo di bruscandoli? Parliamo di bruscandoli, ma io direi che in sequenza, come madre natura dà, prima esce a rosolina. Prima la rosolina, che sono buonissime anche in teccia. A rosolina. A rosolina noi abbiamo degli ospiti, diciamo, degli ascoltatori che di provenienza anche extra-regionale, quindi dovremmo forse puntualizzare che cosa significa rosolina, naturalmente. Beh, la trasformazione della pianta di papavero. Eccolo. Il papavero si trasforma in rosolina, cioè, quindi noi mangiamo il papavero in sostanza? No. Il papavero viene dopo. Ah. No? La rosolina sarebbe la pianta del papavero che poi, quando ha finito il suo ciclo, butta questo fiore che poi diventa papavero. Allora, nella prima fase, ovviamente, quando è pianta, non dà nessuna preoccupazione psicofisica, anzi, è stimolante, è guarente, ha un sacco di proprietà naturali positive, poi diventa un po' tutti quello che sappiamo. Esattamente. Quindi le rosoline ci sono già in febbraio, penso. Le rosoline ci sono in febbraio. Ecco, appunto. E dopo delle rosoline, che sono buonissime. Passi i radicetti del campo. Sì, che hanno la radicetta, la radice piccolina che si toglie. Ecco, alla base, diciamo, sono stati i progenitori del radicchio Verdon da Cortel. A tale proposito vorrei ricordare e rinnovare a tutti l'invito per domenica 18 marzo, terza domenica del mese, come ogni anno, in Piazza dei Signori a Treviso, congrega del Tabaro, per la 12ª mostra mercato della radice Verdon da Cortel. Rosoine, radici de campo, radice Verdon, bruscandoli e sciopettini. Sciopettini, ecco. Bruscandoli. Con i quali si fa risotto. O carletti. Ecco, naturalmente anche qui è d'uopo una, come dire, una definizione anche bravo Antonio italiana, ecco. I bruscandoli? Che lasciamo ad Antonio. Sì, no, no, forse non è il caso, diciamo. Lo faremo successivamente. Allora, ma i bruscandoli è un'altra. Che fiore è? Questo è di papavero. E questo? È il lupolo. Ah, il lupolo. Il lupolo, sì. Col quale si fa la birra. Eh sì. Oh. Poi quando ha finito di fare il bruscandolo, sì? Diciamo, in estate poi si matura al lupolo. Ho capito. E invece i sciopettini? I sciopettini o carletti o carlini sono un'erba barra radichietto, diciamo, che anche questi, però in maniera molto minore dei bruscandoli, sicuramente perché ormai l'habitat è stato un po' dappertutto stravolto, diciamo, sì, deteriorato, sì, eccetera. Sì. Ecco, per fare quanto vogliamo, dalla frittata al risotto, certo, ai pasticci, sì, ai cannelloni ripieni con un sacco infinito di la cose. La cucina ha una enormi possibilità, in effetti. Io, perché ne ho trovati sempre tanti, e beh, qualche volta li mangio anche come contorno. Ma cotti o crudi? No, cotti. Ah, cotti? Sempre no, cotti. Non li ho mai mangiati così, perché ho solo fatto risotti, io ho pasticcio, quello che è, insomma. Comunque, secondo me, sono più buoni i bruscandoi con risotto. I ciabattini forse sono meno saporiti. Sì, sono più da frittata. Mm. Oh, e dopo così i tambari. Tambari cosa sono? Questo non li ricordo. I tambari sono una diciamo una specie di asparago selvatico, ma di un colore verde che poi più si matura più va verso il marrone, e sono di un amaro impressionante. Addirittura. Quindi bisogna farli sbollentare e poi sciacquare sotto l'acqua fredda per togliere questo amaro esagerato. Ma questi con cosa si mangiano? Con le stesse cose. Un tempo li mangiavano con le uova sode assieme, in frittata. Come si chiamano in italiano? Ma... Non credo tambari, di aver mai sentito un'indicazione, una traslitterazione. Lasciamo così il sapore del passato. Comunque diciamo. ci sono, questo è questo è importante. Comunque ci sono. Certo. Quindi abbiamo una varietà di verdure, diciamo così, che saranno verdure, no? Ma sì, erbe spontanee. Ecco, erbe spontanee d'epoca, sì, sì. Diciamo, ecco. Sì, ecco. Testimoni di un mondo, diciamo, che sembrava scomparso del tutto. E come tutte queste cose, anche gli ultimi tambari, dice che da distante soio erba a par, e da vicin soio da chi che a conosce a se fa trovare. Ecco questo. Ah, e in ecco effetti occorre essere un po' come la questione dei tartufi, per usare un'altra cosa. È sempre fondamentale la conoscenza di quello che si va, altrimenti uno evidentemente sembra che non ci sia assolutamente, o che sia qualcosa di insignificante. Questo io in tanti punto. Anni che sono a Treviso non ho mai sentito nominare, vabbè. E vedi quante cose si imparano, vedi, anche nella Tiziano. Nostra trasmissione. Certo. Bene. E i bruscandoi, naturalmente, abbiamo detto che mi pare che i bruscandoi ci fosse anche una poesia che il nostro amico Tiziano avesse dedicato. Bene, sì. Allora la sentiamo. Quando che te cammini ne a staion de marzo, certo che no, su asfalto e a città, te ti incorsi che pena fora dell'erba, verso e a riva del fosso, tra il sambuco a volte, o tra le prime ortighe, o in mezzo a eroe dell'an passà, spuntar una roba verde, ma anche un fiaro setta, codè foiete torno e a capea de un sparaso, ma solo sul someiar, perché de vero a sé tanto pipicinina. E ora te avvicini, ma solo che quel pensiero, e invece te sta fermo, come pietrifica, una agrima sui occhi, anche stano ise spuntà. Che bella. Corsi e ricorsi della natura. Questa è splendida, sì, perché sì, ti dà proprio sì. L'idea del fatto che bella, sì, è sì. Sempre una cosa nuova la natura, sempre qualcosa che sai che esiste, però di questa aspettativa così gioiosa. Allora, ci fermiamo ancora un momento per un'altra canzone cantata da Antoine. Giorno. canzone era La Tramontana. E allora naturalmente passiamo di nuovo all'amico Tiziano, e se non ricordo male, nella sua esperienza di, oltre che di imprenditore, diciamo di uomo delle tradizioni e di poeta, come abbiamo sentito, c'è un'altra poesia dedicata ai bruscandoi, o che comunque ne è, diciamo, una sì, una buona... Allora, quella di prima era l'evento stagionale, cioè la nascita del bruscandolo. Poi col passare del tempo, delle giornate, beh, il bruscandolo prende vigore, prende forza e si fa vedere molto bene. Bei, takai, rampegai, intorcoai, bruscandui sui pai. È bella. E tutto questo succede in primavera. Sentir e a staion che vien, come a vioia che nasce, come il bruscandolo che se fa vedar, come sciopetin che dall'erba sponta, come il toridar che me fa mover tutto, come a staion che mi son primavera. Che bella stagione straordinaria. Sono molto brevi ma molto intense. Molto intense, sì, devo dire. E qui ne abbiamo un'altra. E tutto questo perché viva ha bisogno dell'acqua. Acqua cheta che sei il mio riposo, acqua impetuosa che mai mi fai paura, acqua zampillante che mi fai gioir di gioia, acqua rugginosa che mi fai da corona, acqua copiosa che porti con te il mio amore, acqua tutta, tu sei me. Molto carina anche questa, vero? Questo richiamo agli elementi della natura, in effetti prima si parlava appunto della di questo stravolgimento, eccetera, però noto, correggetemi se sbaglio, una esigenza di ritorno a questa condizione di natura, una resistenza a questo ulteriore stravolgimento che sembra si voglia portare ancora oggi, nonostante tutti i danni che sono stati fatti nella nostra nazione, diciamo, a differenza di altri luoghi, eccetera. Speriamo che prosegua questo tuo intuito. Cioè ecco, che vorremmo sentire il parere del nostro amico Tiziano in proposito. Se mi è concesso, vorrei dire una cosa a cui tengo molto e che credo fondamentale. Noi esistiamo, noi siamo la terra, noi siamo l'acqua, noi siamo l'aria che respiriamo. Non lasciamoci portar via tutto questo. E questo è un fatto che notiamo, io almeno lo noto, non so se sia una mia visione soltanto, questa mancanza di sacralità. Un tempo gli alberi costituivano un elemento sacro, oggi sembrano quasi un fattore di disturbo. Lo vedo nella pianificazione di nuovi quartieri e cose di questo tipo, dove viene il verde, come dire, delimitato in un luogo dove non possa dar più di tanto fastidio. A me sembra che sia proprio una questione di involuzione culturale. Dovremmo ritornare ad avere quello spirito di meraviglia nei confronti di questo patrimonio straordinario che stiamo disperdendo per insipienza, per ignavia, per stupidità istituzionale, la ritengo io. E credo che il singolo cittadino potrebbe fare molto come pressione nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni, pungolando gli ignavi, dando delle idee, dicendo che il re è nudo, cioè non si può continuare a stravolgere il territorio avendo ben presente che cosa succede quando l'uomo mette mano in modo così da incompetente, purtroppo, e tutti questi disastri che si moltiplicano, eccetera. Non possiamo, io credo, continuare su questa strada. Dobbiamo ritornare. Io ricordo dell'uomo che piantava gli alberi, questo sì, personaggio, vero, che da solo, ignorante, senza mezzi, eccetera, ha piantato 300.000 alberi nell'arco di tempo tra le due guerre mondiali sulle Alpi marittime, eccetera. E quindi volendo si può fare, occorre che chi di dovere, non le istituzioni ma il cittadino, debba essere, come dire, forte nei confronti di questi, di questi scempi. C'è un grosso benefreghismo in giro. E questo purtroppo, ma questo parte dal basso. La rivoluzione vera deve sempre partire dal basso. Io ricordo un piccolo episodio che... è stato un periodo che percorrevo spesso Viale Trento Trieste, specialmente la prima parte vicino a... no, dove c'è il Sile, non so, per andare al Ponte di Ferro, non so se tu conosci. Sì, sì, ecco. E c'erano tanti alberi, ci sono tanti alberi. E un giorno ho visto che tagliavano gli alberi e ho chiesto, ma perché tagliate gli alberi? Forse. Perché sono ammalati. Ho provato un dispiacere che mai più. Questo è il problema anche dell'inquinamento, naturalmente stiamo sforando e quindi evidentemente gli sforamenti sono quasi quotidiani. Sappiamo che dobbiamo fare una rivoluzione culturale, insomma... secondo me. Occorre in ogni caso, credo, ritornare al buon senso che oggi sembra non avere diritto di cittadinanza. E con questo... allora, pensierino, Antonio, della sera, sì. Come si faceva un tempo. Mi dispiace. Perché... mi dispiace perché il tempo è veramente volato. Avrei voluto anche sentire volta. Ancora qualche altra storiella del nostro noi, amico Tiziano. Naturalmente, noi qui diventerà stanziale, se Dio vuole, il nostro amico, anche perché ha sempre un sacco di cose non scontate da e poi sai, ogni proporre. Mese cambiano le cose. Le cose cambiano, giustamente, quindi noi dobbiamo essere pronti a recepire questo cambiamento. Se lui sarà così cortese. Io voglio sperare che sia sempre con noi. E io ringrazio voi, saluto i cari amici radioascoltatori, ai quali rinnovo l'appello di prima. Non lasciamoci derubare di tutte queste meraviglie. Io concordo pienamente, naturalmente. E niente, non ci resta altro da fare che dare la buonanotte, ringraziare sempre le ascoltatrici, gli ascoltatori, anche in particolare quelli sì. da fuori sciappo, come diciamo sì. noi, cioè da fuori dal nostro ambito particolare. Io ringrazio Antonio, ringrazio Tiziano, un saluto al nostro regista Eddy Daici e tutti assieme vi diamo una buonanotte. Ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, culture e curiosità dalle nostre terre.